con l'attore Giuseppe Semeraro per parlare dello spettacolo Digiunando davanti al mare, che sarà a Roma all'Appi Teatro, l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, giovedì 28 marzo 2019. Giuseppe, ben trovato. Salve, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ci parli di questo lavoro? Questo lavoro è ispirato alla figura di Danilo Dolci, questo poeta combattente, come io lo chiamo, lombardo, che però è stato, diciamo, per metà della sua vita in Sicilia, al fianco degli ultimi, dei contadini, dei pastori, combattendo e organizzando un po' una sorta di resistenza poetica in quel mondo. Ecco. Come è nata l'idea dello spettacolo? L'idea è nata un po' casualmente. Io, oltre ad essere attore, mi occupo anche di scrittura, di poesia, e Danilo Dolci era anche un poeta che aveva pubblicato anche per Einaudi negli anni 50. E praticamente avevo diversi suoi libri di poesia che amavo tantissimo, però in realtà poi ho scoperto pian pianino che la poesia per Danilo Dolci era una cosa molto, molto secondaria, nel senso che lui, la sua vita era stata veramente dedicata ad attività di tipo sociale, politico, veniva chiamato il Gandhi italiano, diversi digiuni, scioperi, è stato processato per 26 volte. E quindi, avendo scoperto poi successivamente tutta questa parte di Danilo Dolci, ho detto allora gli devo dedicare uno spettacolo e niente, ed è nato il lavoro. Cosa ti affascina della sua scrittura e della sua persona? Mi affascina tantissimo la sua grande capacità, la sua grande capacità di riuscire a dialogare, a comunicare in maniera molto empatica sia con gli ultimi, diciamo, quelli che potevano essere, come lui li chiamava, i banditi dalla società della Sicilia degli anni 50, ma anche con i grandi intellettuali italiani. Parlo di Carlo Levi, Bobbio, Calamandrei, Aldo Capitini, Vittorini, tantissimi intellettuali che poi difenderanno anche Danilo Dolci in diversi processi a Palermo in quegli anni, ecco. Come hai deciso di strutturare la messa in scena? Diciamo, non è uno spettacolo prettamente di narrazione, anzi quasi per niente. Io racconto personalmente come Giuseppe degli avvenimenti e questi mi servono solamente per, come dire, per portare il pubblico come dentro dei quadri flashback di questa storia e lo faccio sia interpretando in parte Danilo Dolci, soprattutto in un contesto molto preciso, quello del processo, un processo storico che lui subì nel 1956. E interpretando anche un contadino che si chiama Cimbrogi, che nella realtà dei fatti ha accompagnato in moltissime battaglie Danilo Dolci. Ho scelto anche di interpretare un personaggio, diciamo, popolare come Cimbrogi per diversi motivi. Prima di tutto perché alleggeriva molto la messa in scena, perché lui la parte popolare, comica, anche divertente, quindi dà una sorta di brio allo spettacolo, e più perché era la testimonianza attiva del lavoro maieutico che Danilo Dolci aveva fatto e che quindi molte anche delle idee, delle proposte che venivano di lotta e di impegno sociale venivano direttamente da un contadino che grazie anche al lavoro di Danilo aveva preso coscienza e, diciamo, avviato un processo di trasformazione e di cambiamento interiore, ecco. Che percorso sta facendo lo spettacolo? Percorso bello, ma anche molto complesso, nel senso che ovviamente è uno spettacolo che si muove in stagioni. Sto facendo moltissime repliche, ma si muove molto in diversi ambiti, nel senso come all'Accademia Popolare adesso, faccio dei matinee per le scuole superiori, dei serali, associazioni, festival orientati proprio più che altro sull'impegno sociale, quindi è molto variegato, diciamo, il giro che sto facendo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Direttamente sulla pagina, penso, dell'Accademia Popolare Antimafia, oppure sulla pagina di Principio Attivo Teatro, dove ci sono anche tutte le info di questo evento. Diciamo, questi sono i punti di riferimento più importanti. Bene, e allora ricordiamo lo spettacolo Digiunando davanti al mare, ad Appi Teatro, l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti a Roma. Giovedì 28 marzo 2019, un saluto e un ringraziamento all'attore Giuseppe Semeraro. Giuseppe, un abbraccio, un in bocca al lupo, Dai. un'ultima curiosità, e il titolo? Digiunando davanti al mare perché, diciamo, molte delle attività di protesta di Danilo Dolci furono incentivate appunto sul digiuno, da un primo digiuno simbolico che lui fece nel 52, digiuno realizzato proprio nel letto di un bambino che era morto di fame, di stenti. Lui fece un digiuno che attirò un grande clamore mediatico, e poi da là vari digiuni, anche il digiuno dei 1000 pescatori sulla spiaggia di Partinico, insomma. Il digiuno è stata una sua forma di protesta, uno dei primi, anzi, forse il primo in Italia. Ecco. Un saluto Giuseppe, Ciao, ti ciao. aspetto giovedì. Ciao, ciao, ciao, ciao.